il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il comparto della carne e anche quello del latte, lo abbiamo detto più volte anche in questa trasmissione, stanno affrontando un periodo di grande difficoltà. Quali ne sono le cause? Forse la poca competitività delle nostre aziende, fragilità strutturali delle filiere, la difficoltà nell'innovazione o anche il cambio delle abitudini alimentari, sempre più attente all'alimentazione appunto che prevedono diete con meno carne, oppure la concorrenza estera. Forse è un insieme di queste motivazioni quello che sta mettendo con le spalle al muro migliaia di imprese zootecniche. Una parte di questi argomenti sono stati affrontati nel quaderno intitolato Zootecnia in crisi, il numero 17 della collana editoriale di Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto Agricoltura, realizzato in collaborazione con l'Università di Padova. Ne vorremmo parlare oggi con Gabriele Zampieri dell'area economica, mercati e competitività di Veneto Agricoltura, che ha collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione. Benvenuto Gabriele, grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi. Ecco, che cosa significa zootecnia, zootecnia italiana, ma in particolar modo veneta in crisi? Si può fare un po' un quadro veloce? Perché non credo che stiamo parlando solo di bovini, anche se la prima cosa che ci viene in mente, la cosa riguarderà anche le suini, avicole, insomma le filiere sono molte. Sì, il Veneto, si può partire così, il Veneto è una delle più importanti regioni italiane per la produzione di carne e della zootecnia e quindi è in prima linea su questo fronte. In Veneto si produce appunto non solo bovini da carne ma anche avicoli, siamo la prima regione italiana per la produzione di avicoli e naturalmente suini, qui contribuiamo molto anche noi alla produzione dei famosi prosciutti di Parma, San Daniele e nel nostro caso anche Veneto e Euganeo che facciamo qui in Veneto, una top veneta, e naturalmente siamo anche i primi produttori italiani di carne di coniglio, anche se è una produzione minore. Siamo anche i terzi produttori di latte alimentare, che poi va con grande destinazione alla produzione di formaggi DOP. Quindi Veneto si trova in prima linea su tutti questi fronti ed è un attimo in difficoltà come settore per tutti i motivi che lei ha citato prima. Ecco, il settore però principalmente in crisi è quello della carne bovina. Sì, carne bovina e anche un po' lattiero caseario. Tutte e due motivazioni sono legate principalmente ai costi di produzione, che insomma sono sempre al limite ai costi di vendita degli allevatori e quindi si trovano sempre sul filo del rasoio, magari una stagione guadagnano qualcosetta, la stagione dopo perdono molto. Ecco, per capire un po' meglio i termini della questione, si sente sempre parlare di stalle che chiudono, è proprio così? Quante stalle in realtà hanno chiuso in questi ultimi anni? Le stalle soprattutto i bovini da latte hanno chiuso moltissime, abbiamo perso negli ultimi 10 anni oltre 4.000 allevamenti da latte, moltissime sono usciti anche per l'età avanzata del proprietario, dell'allevatore che raggiunto i limiti magari tendeva a chiudere, ma ci sono anche altri fattori, principalmente quello di stalle piccole hanno difficoltà a mantenere i costi entro un traguardo che permetteva di avere un minimo di guadagno e soltanto le stalle più grosse e più attrezzate con problemi riescono a mantenere i costi abbastanza bassi. Per darle un'idea di questo, pensi che circa il 50% del latte veneto è fatto da pochissime stalle che hanno come numero di capi superiori a 100 magari, quindi stalle di una certa dimensione, riescono ad avere costi quindi compatibile con quello che è il prezzo di vendita del latte. Certo. Quando parliamo di diminuzione di numero di stalle, si intende anche di capi, cioè nel senso chiudono le stalle piccole perché vengono assorbite da altre che quindi diventano sempre più grandi, quindi un fenomeno che un po' c'è nell'agricoltura di aziende sempre molto meno aziende, però di dimensioni medie più grandi, oppure no? Sì. Sono aumentate progressivamente negli anni il numero di aziende grandi. Abbiamo perso anche una certa quota di patrimonio, per esempio di vacche da latte, perché innanzitutto sono diventate molto più produttive, si è passati a produzioni per capo superiori ai 7-8 mila litri all'anno, e quindi con quantità notevole rispetto a 15-20 anni fa, e quindi necessariamente la produzione fino all'anno scorso era anche contingentata, avevamo un limite di produzione, quindi aumentando il numero di capacità produttiva per capo era inevitabile diminuire anche un attimo il numero di animali presenti in stalla. E naturalmente le stalle più grandi sono quelle che hanno maggiore efficienza anche sul lato alimentare, e riescono quindi a gestire meglio l'alimentazione con minor quantità di personale, e quindi sono più efficienti. Certo, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, ritorniamo tra poco. Va bene, grazie. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Nei contorni giorno e notte il tuo colore si è sbiadito, già è svanito il tuo sapore. Mi dirai che ci sei, ma lo sai che io sono fuori di me. Ridere, piangere, cedere, fingere di respirare ancora e poi silenzi e poi ti svegli. linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il dottor Gabriele Zampieri dell'area economia, mercati e competitività di Veneto Agricoltura, che ha collaborato ad un quaderno, un report Zootecnia in crisi della collana editoriale di Europe Direct Veneto. Abbiamo parlato della questione dei bovini da latte, anche i bovini da carne e anche le stalle con i bovini da carne sono un po' in crisi in questo periodo. Certo, perché anche loro hanno sempre problemi di costi di produzione, e tenendo presente che una quota importante degli alimenti che vengono dati agli animali viene anche importata dall'estero, e quindi subiscono, soprattutto per esempio per la soia e una parte per il mais, anche le quotazioni sul mercato mondiale di questi prodotti. E quindi che è difficile quindi sapere monitorare fino all'inizio. In più c'è il fatto che in Italia si consuma in effetti meno carne, e c'è una diminuzione di circa 3-4 kg a testa annui di consumo in meno di carne, che si è passati dai 23-24 kg di qualche anno fa ai tendenzialmente 18-19 kg degli ultimi anni. Questo dato riguarda solo la carne bovina o anche... Questa è la carne bovina. Carne bovina. Questa è la carne bovina. Perché sappiamo che vi sono anche altre... Mentre la carne di pollo e la carne suina sono rimaste abbastanza stabili o in leggero aumento, però complessivamente il consumo di carne è leggermente diminuito rispetto agli anni scorsi. Lei diceva che siamo i principali produttori nel Veneto per il comparto avicolo. Sì, il Veneto produce oltre il 50% della carne di tacchino e poco più del 40% della carne di pollo nazionale. L'Italia è completamente autosufficiente da questo punto di vista. Le importazioni e le esportazioni sono poca cosa, hanno poca rilevanza statistica. E quindi la maggior parte della carne avicola che si consuma in Italia, e quindi anche nel Veneto, è di produzione italiana, se non veneta. Ecco, nel vostro studio avete visto anche se c'è qualche linea per poter cambiare l'intervento, per poter cambiare questo stato di cose, ci sono dei suggerimenti, che cosa si dovrebbe fare il comparto per prendere quota? Ma probabilmente il comparto lattiero-caseario ha maggiori possibilità. Perché noi trasformiamo la maggior parte del latte, circa tra l'80 e l'85% del latte va a funzione di formaggi. Del latte prodotto veneto, noi produciamo circa oltre 11 milioni di quintali di latte. Questa latte viene trasformata in grana, in montasio, in altri formaggi DOP, in asiago naturalmente. E naturalmente per tutti questi formaggi non possiamo avere la possibilità di consumarli in Veneto, e infatti alcuni sono sicuramente anche consumati in tutta Italia. Lo sforzo maggiore dovrebbe essere quello di riuscire a farli consumare un po' di più all'estero. In questo momento solo il grana, una quota importante di grana va all'estero, mentre per quanto riguarda l'asiago, per esempio il montasio o il piave, sono quote ancora molto basse. Ecco, per quanto riguarda la carne veneta, sia la avicola sia quella bovina, il Veneto non può e l'estero non può essere un settore di espansione? C'è troppa concorrenza rispetto ai prezzi? Sì, direi che il Veneto, noi produciamo una carne di grande qualità, soprattutto sia per quella avicola che per quella bovina. Però è una carne forse fatta su misura per noi, e non abbiamo una tradizione verso l'esportazione, e quindi in questo caso bisognerebbe riprendere le misure, cioè capire quale tipo di carne l'estero è disponibile ad acquistare. Il Veneto per esempio è un grande produttore di vitellone, che è una carne particolare, diciamo quasi inventati in Italia sotto certi aspetti, perché una volta si consumava la carne di vacca o la carne di bue, di toro, quindi di animali molto adulti, invece la carne di vitellone è un animale giovane, fresco, e all'estero sono propensi a consumare carne di questo tipo. Quindi diciamo che rispetto ad altri prodotti dove la tipicità, che incide comunque anche sul prezzo, può essere apprezzata anche all'estero, sulla carne si fa un po' più fatica, è un prodotto più difficile. In questo caso la qualità del nostro prodotto quasi ci si ritorce contro dal punto di vista economico, però anche in questo campo si possono ritagliare degli spazi pensando alle esportazioni. Sì, qualche iniziativa c'è stata ultimamente di cercare di esportare verso l'estero la nostra carne, che però sarà venduta sicuramente a prezzi molto elevati, quindi deve essere capita la qualità, perché all'estero si mangia spesso anche in Europa, anche in Stati Uniti, carne più anonima, diciamo meno caratterizzata, in tipo di piatti più legati, più non so, più stufati, questo tipo hamburger eccetera, hamburger, sappiamo eccetera, benissimo che non trova corrispondenza al nostro modo, certo, di mangiare. Benissimo, io la ringrazio e anche sappiamo che anche a livello italiano dobbiamo comunque badare maggiormente forse alla qualità di quello che mangiamo e che offre comunque il nostro territorio. Grazie. Prego, a voi. E con questo è tutto anche per questa settimana, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio alla prossima. Se volete ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.